I due amici da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Due buoni amici che erano al Chili, simbolo dell'amicizia più cortese. I buoni amici sono in quel paese come quelli del nostro o giù di lì. Una notte, traendo essi profitto dell'assenza del sol, dormivan sodo, allor che trabuffato un s'alza e corre dritto a risvegliar l'amico addormentato. Dormivan tutti in quella casa, a chiasso balzano i servi e corrono coi lumi, anche il padron discende e accorre coi denari e con la spada. Che c'è? Quale fracasso? Sei tu, fratello, che ti pigli spasso invece di dormir come costumi? Che cosa capitò? Hai tu perduto al gioco il tuo denaro? La borsa ecco ti do. T'han fatto qualche ingiuria sulla strada? Andiam, ecco la spada. Vuoi tu dormire in buona compagnia? Questa mia schiava pigliati, o mio caro. No, disse il buon amico, alcun bisogno non ho di tutto ciò, ma solo vengo perché ho fatto un sogno che assai mi spaventò. Tu m'eri apparso con la faccia scura e corsi a te pensando a una sciagura. Sai dirmi qual dei due, lettor discreto, amasse l'altro d'un amor più bello? È l'amico un dolcissimo fratello che vi cerca nel cuore il duol segreto. Senza farvi arrossire o del bisogno che vi tormenta, il sussurrar del vento, un'ombra è segno, o un fuggitivo sogno, per chi vuol bene, di sinistro evento. Fine della favola, I due amici. Questa registrazione è di dominio pubblico.